È giusto. Buonasera a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito nella sera del 3 agosto, si potrebbe mangiare la cocomera e andare al mare e un impegno del genere anche da parte dei nostri amici rappresentanti dell'azienda Gironi invece rappresenta la dimostrazione di un impegno comune che mettiamo insieme. Desideriamo in anticipo naturalmente all'inizio presentarci, noi siamo il Comitato dei Cittadini della Berletta, ovvero un comitato che nasce su Via della Berletta ma che riguarda la zona naturalmente del quartiere cosiddetto il vecchio quartiere della Birra, prospiciente al fiume Reno da una parte e al Via Triumvirato dalla parte opposta, insomma, quindi dalla Via Emilia all'aeroporto, insomma l'area di interesse che ci riguarda è questa. Ci siamo costituiti per occuparci di questioni che riguardano la salute dei cittadini, la sicurezza dell'ambiente, insomma, quindi semplicemente come cittadini cerchiamo di adoperarci al fianco delle istituzioni per rendere presenti tutti quelli che possono essere vari tipi di problematiche presenti nel nostro quartiere. Nello specifico, naturalmente, questa sera c'è un argomento particolare che riguarda questa azienda che tratta rottami metallici, che è la Gironi SPA, appunto, azienda nata nel 72 come piccola ditta che rottamava poche cose, perdonate, nel senso era un'azienda nata in piccolo, naturalmente, cresciuta nel tempo, sviluppatasi, parallelamente al quartiere, cioè quindi anche il quartiere aveva molti meno abitanti in quegli anni lì e si sta densificando, oggi stanno costruendo anche in maniera importante, quindi nei prossimi 2-3 anni avremo un aumento della presenza di persone nel nostro quartiere e per cui riteniamo che ci siano da segnalare e da trattare alcuni argomenti rispetto a queste tematiche. Questa sera naturalmente siamo presenti per il Comitato dei Cittadini della Berletta, il Presidente che è Dodo Zucchini, la Cristina Vallisella, l'Alessia e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'è Andrea De Franceschi che è il consigliere alla Regione per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle appunto. Ci ha supportato almeno per quanto riguarda alcuni indirizzi e alcuni tipi di informazioni che intendiamo prendere perché non siamo esperti, non siamo geometri ingegneri, abbiamo bisogno di un supporto per prendere anche informazioni in termini tecnici di quello che possiamo fare insieme. C'è un aspetto primario, dopodiché cederò la parola, c'è un aspetto primario fondamentale dal mio punto di vista che va sottolineato più volte. L'azienda di rotami metallici Gironi presente nel nostro quartiere, nello specifico proprio confinante con le nostre proprietà della corte dove è stato costituito il comitato, quindi parliamo di un metro e mezzo di distanza, ritiene che questa sia un'azienda assolutamente lecita dal punto di vista aziendale, cioè è un imprenditore fantastico che nell'arco di questi anni, quindi 40 anni diciamo, 38-40 quelli che sono, è cresciuta, dà da lavorare a gente, ci sono persone extracomunitarie che lavorano lì dentro, cioè è un bellissimo esempio di quello che è l'imprenditoria nostra locale e in un momento come quello che stiamo vivendo, quindi di crisi, nessuno, sto parlando io come Werther, ma anche dei nostri amici del comitato, ha in testa un'idea di, non so, vi facciamo chiudere o di puntare i piedi rispetto a questa azienda in maniera illecita, tutt'altro che questo. Semplicemente le due crescite, quindi del quartiere e dell'azienda, stanno sempre più creando un clima, come dire, di compressione rispetto alla convivenza civile nostra tra quartiere e azienda, che appunto prima di tutto vorremmo che non sviluppasse delle, come dire, degli scontri personali che non vogliono esserci e tutt'altro vogliamo porci. Da tanti anni, da un po' di anni in questa zona si è cercato di intervenire prima in maniera informale tra quartiere e azienda parlandone, poi mica iniziare più tardi, potresti finire un po' prima, non si può operare in maniera più silenziosa, naturalmente è difficile perché quando tratti con i ragni lo scarico dei metalli, il rumore non ci puoi mica mettere i gommini sotto ai metalli, quindi fisiologicamente un'azienda che ha le sue esigenze. Aumentando però questo tipo di attività, oggi oggettivamente si sono creati dei problemi, abbiamo appunto rilevato, non solo noi come cittadini, ma ci sono organi che stanno rilevando, il fatto che sforamenti, l'ARPA ha rilevato e ha registrato gli sforamenti dei livelli massimi consentiti di rumosità, in merito a questo come si fa a misurare il rumore? C'è uno strumento, si chiama fonometro, e dal momento che la legge dice che tu sei a norma se rispetti fino a un certo numero di decibel, che è l'unità di misura del rumore, dal momento che sfori rispetto a questi parametri, automaticamente non rispetti più questo parametro. Quindi partendo da questo e altre questioni, abbiamo, come dire, inteso avvicinarci a voi, partendo da noi che ne facciamo parte di questo quartiere, proprio per analizzare insieme se non ci siano delle opportunità, magari che fossero anche, perché no, assolutamente benvenuto l'ipotesi, comuni tra il quartiere e l'azienda, di, lo dico chiaro e tondo, di una delocalizzazione. Cioè, oggi questa è un'azienda che crescendo è per esempio suddivisa su due aree chiuse singolarmente da cancelli. Questi naturalmente per muoversi da un'area all'altra usano i loro macchinari passando in un'area che specificamente sì è privata, ma con diritto di passaggio perché sul retro ci sono altre case. Allora, un'area privata col diritto di passaggio risulta avere l'obbligo di rispettare le leggi di una strada pubblica, quindi è impossibile che possano passare mezzi senza targa o ragni con appesi metalli, eccetera. Allora, questo però rappresenterebbe un acuirsi di un problema che noi vorremmo evitare, ma che è reale ed esiste. Sulla parte posteriore, la parte posteriore dell'azienda, mi riferisco al lungo Reno dove c'è il parco nostro del Reno, il termine dove finisce quell'azienda in area demaniale è delimitato da una lamiera che nel corso degli anni si è degradata fortemente, quindi sa, una volta, insomma, negli anni 70 si potevano fare le robe con due chiodi, ora ci sono pezzi di ferrovia, tubi che ormai sono crollati, lamiere, che il tema è se tira una folata di vento cadono ste lamiere. Questo è diventato un bel parco oggi, a differenza di quello che era magari 6-7 anni fa, e passano bambini, le mamme con le carrozzine, insomma, ci sono lamiere arrugginite dappertutto. Allora, proprio guarda caso oggi, quindi non parliamo di oggi 3 agosto fisicamente, il responsabile, quindi l'ispettore capo dei vigili urbani di Borgo Panigale, scusate, non sono abituato a parlare in pubblico, è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi chiedo venia per gli errori. E quindi in questo caso dice no, questa è una roba che non sta nelle regole, e ha invitato i gironi a intervenire per mettere a posto questa situazione, ma situazione presente da lunghi anni, no? Latero breve, lascio la parola naturalmente ai miei colleghi, e ci terremo dopo anche a condividere un aspetto contraddittorio con la controparte che legittimamente, e anzi benvenuti ai nostri amici, si sono presentati questa sera per condividere con noi per condividere con noi le idee e naturalmente apporre le loro indicazioni. Grazie per l'attenzione. Tu hai le date adesso in mano. Dodo Zucchini. Buonasera. Allora, sono il presidente del comitato, niente, questo comitato è nato, come ha detto appunto prima Werther, naturalmente per tutelare un pochettino i cittadini. E da parte di questa azienda naturalmente credo che ci siano dei muri veramente insormontabili, perché naturalmente dalle 5 del mattino, anzi addirittura delle volte anche dalle 4 e mezza del mattino, si accendono i camion, 8, 10 camion, 15 camion, adesso non so quanti possono essere. Quanti sono, scusate? No, no, non è vero. No, non è vero. Allora, signora, signora, non è vero. No, no, beh, però portiamo rispetto, perché insomma è giusto, le, sì, le, sì. Le porterò i filmati, signora. Allora, 8-10 camion che partono la mattina alle 4 e mezza mattino rimangono accesi 5-10 quello purtroppo non li sento, meno male, perché io anche questa mattina mi sono svegliato alle 4 e mezza perché naturalmente i camion sono partiti e non ho ancora dormito dalle 4 e mezza di stamattina. Comunque parte questo, ma neanche, non io personalmente solo, ma circa 200-300 persone, perché passano in mezzo alla via Magellano e dalla via Magellano naturalmente svegliano un sacco di persone. E poi niente, ci sono fumi naturalmente perenni per 8-10 ore al giorno, che sono quelli dei camion, sono quelli dei rami, sono quelli dei muletti, addirittura c'è un muletto che è del 1930, se non vado errato, grosso modo, comunque molto vecchio, adesso non saprei dire l'anno. E abbiamo delle polveri in casa che sono delle polveri di ferro, di qualcosa, di alluminio, qualcosa del genere, stiamo facendo analizzare. E poi naturalmente è il rumore perenne tutto il giorno che si scarica del ferro, che non si riesce a tenere le finestre aperte neppure d'estate. In inverno per fortuna dopo un pochettino sono chiuse, di conseguenza almeno si potrebbe anche riuscire o a dormire oppure quantomeno ascoltare un attimo la televisione e parlare con la moglie e i propri figli in casa, e in questo momento non ci si riesce assolutamente. Poi ci sono, diciamo, questi passaggi di camion di 30-40 camion tutti i giorni che passano per le strade, che veramente sono delle cose allucinanti, in una stradina dove passa a malapena una macchina e mezza. È vero o no, signore? Ve lo dico, via Magellano ci passa una macchina e mezza, due macchine non ci passano. Ah sì, anche, sì, questo esatto, arrivano fino al secondo piano, arrivano fino al secondo piano in continuazione. Allora, dovrebbe iniziare alle 7.30 del mattino, come no? 7.30. C'è sito attaccato al portone. Beh, comunque, tagliamo la testa. No, 5.30. Del mattino, ma non sono le 4.30. No, 5.30. Non sono le 4 e mezza, signore. No, no, ma no, dopo anzi... E non facciamo le domande. Poi adesso ci sono diverse altre cose, non so, come anche diciamo certi stoccaggi che adesso naturalmente si andrà ad appurare un po' il tutto per vedere naturalmente che cosa potrebbero andare a causare alla salute naturalmente dei cittadini che ci sono lì nei paraggi, che sinceramente qua si sentono delle puzze fra gasolio, poi si sente la puzza. Signora, lei venga ad abitare in casa mia e poi dopo lei vedrà. Dopo poi in casa. Allora, mi perdoni, la posso invitare? Perché se parla diritto di parola in sede adeguata la invito, perché in democrazia giustamente anche la controparte ha diritto alle stesse regole di chi sta parlando. La prego, signora. Ecco, io mi chiamo Marzia Zambelli innanzitutto e ci tenevamo moltissimo a essere qua perché non è la prima delle riunioni dei comitati cittadini a cui partecipiamo per la ditta Gironi, però questa sera particolarmente ci tenevo perché con il filmato che ho visto, con tutti questi anni veramente di di grande difficoltà lavorativa per l'azienda, perché sono state difficoltà enormi. Adesso io, se mi è permesso, noi abbiamo difficoltà enormi, ma io capisco, ma guardate che ecco, ma guardate, guardate che nessuno, e credo la ditta Gironi per prima, neghi il disagio vostro. Ecco, saremmo stupidi. Premetto che noi non ci abbiamo capito. No, questo con il rumore che questo me l'avete specificato fin da subito. Assolutamente. Per carità, anche perché i Gironi sono degli straordinari imprenditori che peraltro in 40 anni di lavoro sono solo cresciuti, hanno solo dato da lavorare a della gente e quindi per carità, fra l'altro hanno dato da lavorare a dipendenti, al momento attuale in carico sono 18-20, adesso non ricordo bene, senza mai una lamentela da parte di un lavoratore, quindi questo peraltro va dato merito all'azienda. Ma detto questo, che non c'entra con la serata, ecco, nessuno nega il vostro disagio, perché io, se abitassi dove abitate voi, mi rendo perfettamente conto che d'estate il rumore, io i filmati li ho visti tutti, oggi me li sono rivisti prima di venire qua. Non è facile aprire le finestre, trovare dei ragni, dei cumuli di rottami. Allora, quando la ditta Gironi, io sono la consulente di Gironi da 20 anni, quindi parlo con cognizione di causa. Quando la ditta Gironi si è insediata in via Magellano 40 anni fa, alla Birra, dove peraltro io sono nata, era tutta campagna. E allora vi faccio un altro discorso. Le case che ci sono vicino sono dei primi del Novecento. Allora io, guardi che io sono nata lì, quindi insomma conosco la zona. Allora, scusate, allora non era campagna, era totalmente urbanizzata, diciamo così? No, non totalmente. Bene, allora la ditta Gironi quando si è insediata lì, e perlomeno parlo degli ultimi 20 anni, da quando la seguo io, ha fatto tantissimo per la zona, compreso gli spazzamenti della strada, che si faceva e li faceva a spese. Vi ringrazio dell'intervento, che non viene sottovalutato, a costo di darvi qui la parola tra qualche minuto. Per rispetto, noi siamo in tanti, facciamo parte del quartiere. Ma guardi che io gliele documento però, eh! Io gliele documento. Signora, mi deve perdonare. Allora, in questo momento mi permetta di non formularle la mia opinione. Noi abbiamo l'onore di avere partecipe una controparte che in maniera autonoma e legittima si è presentata da noi per esporre la propria teoria. Noi stiamo esponendo una teoria. Mi pare giusto, e cedo subito la parola naturalmente, e non per tagliare le gambe a quanti adesso per replicare, perché avremo un po' di spazio proprio per intervenire con le repliche. Noi in questo incontro parliamo di due, proprio perché le persone partecipi e non solo noi della corte al fianco abbiano la parola in mano. No, è importante sottolineare alcuni aspetti, poi dopo ci forniamo la replica per rispetto a. Grazie, perdonatemi, non interrompo. Allora, per carità del Signore. Allora, guardate. Rimanendo in un dettaglio, sì, prego. L'esposizione di come stanno i fatti, invece essendo la difesa, i fatti quali sono? Lasci però finire di parlare la signora. No, no, beh, mi hanno invitata, io per l'amor del cielo, ecco. Ah, ma possiamo finire. finire di ascoltare, per carità del Signore. Vada pure, ci sono problemi. Allora, guardi, finisco la mia esposizione e poi dopo passo volentierissimo, ci mancherebbe altro. La ditta Gironi è autorizzata, quindi non è una ditta che... La ditta Gironi è autorizzata dall'assessorato ambiente della provincia di Bologna ed è autorizzata da quando... Adesso però si sente, direi. Ed è autorizzata da quando esercita l'attività o quantomeno da quando sono entrate in vigore obbligatorie tutte le autorizzazioni. Ecco, io vi faccio notare che è stata ispezionata da, io credo, qualsiasi tipo di ispettore abbia l'autorità per poterlo fare, ci sia sul territorio. Chiunque abbia questo tipo, lei ride, certo, beh insomma la gente deve però anche lavorare, chiunque abbia la facoltà di fare un'ispezione è andato da Gironi, tutti, e in maniera qualche volta tranquilla, qualche volta leggermente meno, abbiamo sempre documentato la legittimità di quello che stavamo facendo. Facciamo veri documenti? Certo. Di fare cosa? Tutti quei lavori lì che noi siamo già dal 70. Dal 70 l'abbiamo fatto opposizione per quella. Ma chi li ha dato il capello? A cosa si riferisce? Noi vogliamo andare alla strada per entrare nei giorni. A cosa si riferisce? Alle barriere? Chi ha dato il permesso di fare quel lavoro lì e di fare le barriere, le barriere non portano niente. Beh, ma il permesso l'ha dato l'ARPA e l'ha dato... No, non è... Voglio dire, è stata un'ordinanza del sindaco che ci ha imposto di fare le barriere, quindi è stato un ordine del comune. No, non c'entra il signor Roppa, del sindaco. Non c'entra. Ma guardi che le barriere sono state fatte per mitigare il rumore. E abbiamo le relazioni ARPA, signori, voglio dire, ecco, da 6 metri le abbiamo innalzate a 8 metri proprio perché c'erano delle... Abbiamo le relazioni ARPA di... Adesso faremo le barriere sull'altro lato. Prego. Ah, ma guardi, qui dove ovunque ce le prescrivono. Allora, guardate, signori. Per fare le barriere, peraltro, la ditta Gironi ha speso una cifra circa uguale a 300.000 euro. Quindi voi... No, non rida, per cortesia. Ma insomma, voglio dire, non c'è da ridere. Ci sono le fatture, è documentato anche questo. Ha speso circa 300.000 euro, forse qualche migliaia di euro più piuttosto che meno, per fare quelle barriere e annessi e connessi. Allora voi ne avrebbe fatte anche volentieri a meno, ovviamente. Le è stato imposto di farlo, per l'amor del cielo, così come sono stati fatti i giardinetti, le collinette, così come abbiamo questa convenzione col comune per la manutenzione del verde. No, no, guardate, quello che dico è tutto documentabile. Ecco. Bene. No, ma cioè, voglio dire, purtroppo io faccio la consulente e parlo con della documentazione alla mano, perché sennò, ecco, non sarei qua, per l'amor del cielo. Quando voi mi parlate di stoccaggi di rifiuti, la ditta Gironi stocca rottami ferrosi e non ferrosi, è autorizzata a un numero di codici di rifiuti, è autorizzata la raccolta e il trasporto per i 10 camion che ha di proprietà. I due li motivo dopo. I 10 camion sono di proprietà, ma quante volte dirlo? Dopo glielo spiego. È autorizzata la raccolta e trasporto ed è autorizzata allo stoccaggio. È autorizzata allo stoccaggio delle batterie, ma non come, scusatemi, io qualche contestazione tecnica bisogna che ve la faccia sul filmato, non come avete detto nel filmato, qui non ci sono degli stoccaggi impropri, illeciti di batterie, la Gironi stocca le batterie dentro a un cassone, piccolo cassone, quanto è grande Roberto, non so, ecco, l'ingegnere lo perizia, per cui loro sono quelli che periziano i camion e l'azienda, quindi, ecco, e stocca dentro un cassone a tenuta stagna. Abbiamo avuto i carabinieri dei NOE anche prima di Natale, quindi oltre a tutti i vari ispettori, oltre a tutti i vigili che ci avete mandato, compreso quelli di stamattina, che poi sono usciti, perché sapete, molte volte questi signori, anche l'ultima che è venuta, con la quale io sono stata a parlare 5 ore, alla fine ha detto: signora, a me dispiace, ma a me mandano, io devo venire. No, non sto scherzando, parlo sul serio. Ecco. Ecco, perché di fatto quando poi noi produciamo tutta la documentazione che loro chiedono, che altro dobbiamo fare? Ecco, che altro dobbiamo fare? Allora, il signore Zucchini ha parlato di delocalizzazione. Allora, 15 anni fa noi eravamo disposti a delocalizzare per tutta una serie di motivi. Oltretutto siamo stati disposti a delocalizzare anche quando abbiamo avuto l'esproprio della TAV, dell'alta velocità, no? E vi posso assicurare che da circa 17-18 anni io scandaglio il piano provinciale rifiuti e tutti i piani regolatori, o PSC come dir si voglia, che il Comune di Bologna mette in atto. All'ultimo PSC ci sono 30 pagine nostre di osservazioni proprio sulle aree che non vengono mai trovate per le attività di stoccaggio e di recupero di rifiuti e sono firmate da me, quindi sono più di 15 anni che scandaglio ogni centimetro quadrato del territorio provinciale per vedere e capire se ci sono aree idonee. Non ce ne sono, signori, non ne mettono a disposizione. Voi non avete idea di quante volte io sono andata a parlare, e potete chiederlo, interloquire con lui, con il signor Venturi, il vicepresidente della provincia, Giacomo Venturi, ex sindaco di Zola Predosa, o con l'ufficio tecnico ovviamente del Comune di Bologna, o con la pianificazione del territorio della provincia di Bologna, con l'ingegner Petrucci, per capire come mai non destinino mai un centimetro quadrato se non nelle zone artigianali industriali. Zone artigianali industriali, peraltro, nelle quali non sempre e con moltissima difficoltà si trovano aree idonee, perché in tutti i nuovi PSC i sindaci... Come? No, signora, per carità del Signore, ma noi la volontà... Signora cara, cosa possiamo fare? La volontà noi ce la mettiamo tutta. No, ma non faccia questo discorso, signora, per cortesia, che i gironi si sarebbero trasferiti 15 anni fa. Io però vi faccio una domanda. Le abitazioni che hanno appena costruito dalla... Ecco, allora, ma voi mi dite chi dà il permesso a costruire lì? Quelli stessi che hanno dato permessi ai gironi. No, scusi, no. No, signora, ma abbiate... Ecco, cioè qui ho detto prima col signor Zucchini e con il signore... Qualche volta forse avete sbagliato interlocutore, nel senso che dovevate forse... Adesso io temo, purtroppo, per come conosco io i piani provinciali rifiuti, quindi il territorio, io temo che purtroppo sia molto tardi per trovare delle aree. Magari ce ne fossero. E allora chiudiamo la ditta Gironi? No. E che facciamo? Dove? Dove? Fate meno rumore. Dove? Non dovete fare rumore. Non è possibile. Vede signora, purtroppo, tra l'altro voi vivete in una zona dove la ditta Gironi c'è da 40 anni e quindi 40 anni... 40 anni... Le abitazioni erano prima, signora. Allora, le abitazioni c'erano prima. Certo. Allora, se la ditta Gironi si doveva ingrandire 15 anni fa, si doveva togliere dalle palle, scusi le parole. Ma l'area era sempre quella, Ma dove l'area? L'area allora, era quella, Viene delocalizzata, come dice anche espressamente un articolo 216 del decreto ministeriale del settembre del 94. le ditte in salvi di prima categoria devono essere delocalizzate fuori dai centri abitati. Allora, guardate, a proposito di questa comunicazione che voi avete dato di classificazione di aziende insalubri di prima classe, ecco qua io faccio un appunto. Perché l'azienda Gironi... Posso sapere chi ha detto che l'ha messo in serie D, che sicuramente lo vado a prendere e faccio una settimana a casa mia. L'azienda Gironi nell'88 era classificata azienda insalubre di seconda classe. E nel 95-96, adesso non ricordo bene gli anni, con una forzatura della... Guardi, lei... con una forzatura dell'allora responsabile del servizio di igiene pubblica e settore sociosanitario del comune di Bologna, professor Fagioli, venne classificata azienda insalubre di prima classe. Che vuol dire? No, poi è stata riclassificata. Che, quindi vede, perché i rottami metallici, lo stoccaggio dei rottami sono classificati aziende insalubri di seconda classe, che poi dopo lo vado a chiamare. Allora, perché questo? Venne classificata forzatamente insalubre di prima classe perché così dissero allora, così la facciamo andare via, la facciamo andare via dal vicinato. Bene. Questa è una barzelletta. No, ma guardi che io quella vicenda l'ho seguita in prima persona. Io guardi scrissi solamente una lettera al professor Fagioli dicendo benissimo, non ci sono problemi, intanto ci trovate un'altra area, perché qui sta poi sempre il punto, signori, cioè non è che parliamo di un'azienda di 1000 metri quadrati, parliamo, le spiegherò anche quell'area, dico trovate un'altra area e noi ci delocalizziamo domani mattina. Noi abbiamo avuto... Abbiamo avuto incontri con l'ufficio tecnico del comune di Bologna a Iosa, però conferenze dei servizi anche proprio per questo problema, abbiamo dato la disponibilità alla delocalizzazione, ma cari signori qua non si muove un centimetro quadrato. Perdoni solo interruzione. Facciamo fino a questo momento possiamo dire di avere un punto in comune, cioè sia la cittadinanza che la ditta Gironi potrebbero avere l'interesse comune a delocalizzarsi, possiamo affermarlo con certezza? Guardi, purché lo dico con altrettanta... Perché non pagate voi, dici? No, guardi, guardi, credo che per carità... Io mi sono trasferito con dell'azienda e pagavo io. Per carità del Signore, purché ci siano i presupposti di un'area di metratura così adeguata, come era stato concordato ancora a suo tempo, magari non diviso e non certo a in zone che sono diametralmente opposte a quello che è il parco clienti della ditta Gironi. Ma l'azienda Gironi però sta dicendo che si rivolge all'inizio a un mercato cittadino, poi regionale, sta puntando a un mercato nazionale. Dal mio punto di vista trovarsi Antonio, è un discorso molto più complesso che però se mi... adesso questa è una scelta aziendale e credo che possa essere di totale padronanza e competenza della Gironi scegliere dove andare. Per quanto riguarda l'area dell'aeroporto, signora, vede, il comune fece una cosa carina perché disse vi abbiamo trovato l'area, vi mandiamo in zona aeroporto. Bene, allora quando il responsabile dell'ufficio tecnico, il dirigente dell'ufficio tecnico del Bologna, del comune di Bologna, ci chiamò per darci questa notizia, io ho detto oh mio Dio, aspetta un attimo che andiamo a parlare con l'aeroporto, anche perché era già in previsione l'ampliamento della pista dell'aeroporto. Per cui io andai a parlare con l'ingegner Kollesek, che era responsabile della sicurezza dell'aeroporto, e insieme all'ingegner Kollesek facemmo uno studio previsionale delle masse metalliche sui radar. E l'aeroporto disse, ma voi state scherzando. Ma è un discorso diverso. Non c'entra il danneggiamento dei radar. Okay. Prego. Senta signora un po' di tempo. No, ci mancherebbe, basta. Prego, prego. Prego. Dopo le rispondo. Dopo le rispondo, signora. No, no, no, adesso dica pure, dica pure. No, no, certo. Signor, qualche disattenzione, dottoressa. Io abito in via Magellano 22. Signor Gironi mi conosce bene, penso. Io e lei non ci siamo mai visti. 22. Quindi sono proprio frontline. Si può dire il suo nome per portare? Nanni. Ah, signora. Nanni Stefano. Benvenuto, piacere. Alcuni esercizi abito dal 58, quella zona dove è ubicata la Vita Gironi è così perché sono venuto lì, ho 4 anni, vedo. Quindi sono in esattezza che era campagna, così era, c'era una cava, è stata rinterrata e lì dopo c'è andata la Vita Gironi. La Vita Gironi è solamente sul 29, giusto? Lei lo dovrebbe conoscere. La strada se l'abbiamo voluta asfaltata, l'hanno asfaltata i frontisti. Gozzi, mio padre, asfaltata perché era sterrata. Lei, andiamo indietro nel tempo, lo sa il signore. E l'abbiamo asfaltata noi. Ma che, a parte credo un'asfaltatura, se non vado errato, un'asfaltatura è già, i tondini sono già diversi, perché con l'asfaltatura originale di 45 anni fa, più o meno, 45 anni fa, avrebbe, con i nostri mezzi, io parto la mattina e torno la sera con, la mia macchina, non l'avrei distrutta, era ancora quella. Quindi sarebbe anche ora che pensassero di asfaltarla, la Vita Gironi, la strada, a questo punto. Le barriere, che ci sono qui, forse qualcuno ha messo una firma sulla petizione, ma che abbiamo girato assessori, quando cioè ribalzato contro il muro di gomma, c'ero io, Gozzi in parte, Cittadino, un altro signore, e dopo sono arrivate finalmente le barriere, ma dopo una lotta di quelle. Le ispezioni dell'ARPA, non so se c'è qualche rappresentante dell'ARPA, fanno ridere. No, perché sono venuti a casa mia, sa quante volte a fare i rilievi? Guarda caso, tutte le volte, addirittura andai a prendere un ispettore dell'ARPA su al parco del Triunvirato con la macchina perché così non lo vedevano. Ma... Si figuri, non sono andato a prendere io, perché così veniva in incognita. Come fate ad avere questi canali preferenziali? Che per avere l'ARPA bisogna aspettare anni? No, dietro delle petizioni, delle richieste mandate da tutti i vari assessori, l'assessore Moruzzi, sa quante diciamo, ne ho girate di tutte di più. E quindi le ispezioni dell'ARPA, tornavo lì, guarda caso, nonostante questo ispettore veniva in incognito, quella mattina non passava un camion. Non ne passava uno neanche pagato. Ne passano 200 in un giorno, si figure. Quindi lasciamo sperdere questo tipo di cose. Noi non abbiamo mai avuto un canale preferenziale. Su no, questo, no, guardi. Guardi. Magari. E non solo canali previdenziali, perché l'ARPA è un'istituzione che serve per controllare l'ambiente. Non si tratta di canali previdenziali. No, non è così. No, ho detto come fate, perché vedete, noi abbiamo avuto ispezioni, iniziava un lavoro e dopo 2 ore arrivavano i vigili. Iniziava un... Ma veramente? Abbiamo i verbali, non è che... Posso dire una cosa? I vigili che sono venuti l'altra mattina non li abbiamo chiamati noi, perché in 15 anni non sono mai venuti con le chiamate. Quando li chiamavamo tutte le volte che li abbiamo chiamati? Noi abbiamo avuto una roba che neanche non so veramente. Guardi, credo che alla ditta Gironi la potenza economica che ha, no, proprio non gli fanno un baffo nessuno, glielo spiego io, allora, guardi, credo. Io ti chiedo scusa. ma io la intimo a non fare delle affermazioni del genere, per cortesia. Io la intimo a non fare affermazioni del genere. No, lei ha interpretato male. No, per cortesia. Credo che tutte le espressioni che siano, non credo che abbia paura. Io guardi, non sono. Ma non perché ci sia la. Siamo qua in maniera. Pagare anche un verbale, ecco, non ci sia problemi. Facciamo attenzione alle parole. Non mettiamo il regolamento su questo piano, per l'amore di Dio. È fondamentale e importante nel rispetto. Allora, ha interpretato male, oppure ha voluto interpretare male la signora, perché la signora. No. Lei l'ha voluto interpretare male. No. Qualunque, anche vigile che sia venuto. Anche un verbale. No, non sono mai venuto. Credo che non abbia problemi la ditta sia venuta. Ma di volte. Non credo che gli faccia paura un vigile. Un dettaglio glielo posso fornire, perché proprio perché nell'ottica della moderazione della serata, alcuni dettagli anche magari informali che però le famiglie vivono vanno forniti per completezza dell'informazione. Quando questa mattina sono venuti i vigili nella persona dell'ispettore locale, insomma, il rilievo fondamentale, vigili presenti, ispettore presente, lei in borghese, loro con macchina ufficiale in divisa, era proprio che non si può girare in quell'area, detto dai vigili, quindi da un'autorità competente, con i macchinini senza targa, non targati. Benissimo. Noi siamo qui in 10 testimoni che le garantisco che in giornata è ripassato altre 20 volte. Naturalmente lei dirà è un'illazione perché lo dici tua voce, io le dico siamo in 10. Quindi allora, vede, allora il tema è anche l'aspetto individuale e personale che delle volte ci coinvolge rispetto ai fattori oggettivi, quindi un po' come dire me lo passa, guardi che può accadere anche a noi, non faccio mica nel prete né nel santo io. Però l'aspetto un po' così magari prepotente, maleducato, diciamo, no? È quello che magari può anche alzare il tono, cioè quello che esasperato. Si figuri noi, l'esasperazione che abbiamo noi. Per spiegarle che alle volte magari ti passano i vigili e questi dicono no, d'ora in poi passeremo con la bicicletta, dopo mezz'ora per tutto il giorno te lo ritrovi in giro ancora col macchinino, può quasi sembrare una provocazione. Allora, il concetto dal mio punto di vista, come ci hanno anche indicato le forze dell'ordine in questo senso, è non facciamoci questo tipo di dispetti che non sono utili a nessuno. E le rigiro la parola perché aveva il microfono, glielo tolgo per moderare, non voglio limitarla. Aspetta, c'è Luciano Mari che vorrebbe parlare. Bene, allora, insomma, cerchiamo di moderare col diritto. Zitto. Giochiamo un po'. Solo una cosa, quanti erano effettivamente in campo? Perché prima ha detto due e poi sono diventati 10. Il cambio di proprietà. Siamo qui per te. Sì, facciamo parlare. Il signor Valli o il signor. Brevemente, perché parlate? Va bene, dai. Finisco una cosa. Non chiedo scusa per il discorso di prima, ma non interpreti in quel modo. Comunque, credo che serva anche un po' di buon senso. Ma questo l'ho detto davanti a tutti gli assessori a cui sono andati. Bastava un po' di buon senso. Quando è stata fatta fare la barriera, sono state date delle limitazioni, abbiamo chiesto delle limitazioni orarie, anche dopo la ditta Gironi ha fatto pressione di nuovo per riprendere il ciclo lavorativo. Basterebbe un minimo di buon senso, anziché, l'ho detto anche col signor Gironi quante mila volte, non si tratta, non è un fornaio che fa tratta del materiale terribile. Credo che anziché iniziare alle 7, 6 e mezza la mattina, se iniziano alle 8 e mezza, credo che facciano un'opera di buon senso. A fare la pausa di un'ora, solamente a Caruso, lavorare il sabato mattina, come lavorano tutti i sabati mattina, ci vuole anche un minimo di buon senso. Se ti metti allo scontro, poi lo scontro, credo che se usassero un altro modo di rapportarsi con la cittadinanza che è intorno, probabilmente la gente poi alla fine non si incazza, scusi il termine, ha capito? Quindi basterebbe poi poco, credo che a un'azienda del genere se li perdi di tirare via un'ora di lavoro non sia la morte di nessuno, credo. Ci sono dei tempi che... Lasciamo dopo subito la parola al giornale. No, ma prego, dopo rispondo tutto. Mentre se ne andrà a replicare. Ritengo che non posso dire... Parla più forte, cioè. Almeno da quando sono arrivato, rappresentante del Gigone, del Banco, praticamente, che ha come si chiama? Gianni Marcia, presidente del centro previdenziale della Banca. Siamo abbastanza conosciuti anche per l'azienda nostra che quotidianamente diciamo siamo in barba anche con le istituzioni pubbliche, che spesso volentieri è quella che è più imbarazzante rispetto ai problemi di prevenzione. E parlo di prevenzione perché qui vedo che abbastanza logoro nel tempo, perché ha lavorato la cittadinanza e ha prodotto anche delle situazioni di tipo patologico e neuropsichico. E già qui, voglio dire, siamo a un livello che, diciamo così, è un problema non indifferente, perché dal punto di vista psichico è più difficile da capire che dal punto di vista quando siamo. Ora, l'ultimo documento che sono venuto a conoscenza è una sessione fatta l'8 di luglio e rispetto a questa sessione, tra l'altro, è stata fatta anche tardi, perché più o meno è stata fatta alle 11 circa, non alla mattina, e comunque termina proprio l'ARPA dicendo che tutto è fuori. E questo è c'è una scorrettezza in quanto lei dice. Allora, io so che a volte c'era la Panga e la Panga hanno fatto dei palazzi, perché le ragioni per cui è stata dismessa dal centro abitato, anche se voglio dire le costruzioni sono state fatte dopo, è stato perché l'azienda di quel genere in una realtà urbana ormai non era più facendo. La canzone c'era anche la Casco, non ricordo perché c'era la data. Sasco. Ed era una fonderia di fianco alla Calzoni e la Calzoni era abbastanza famosa. E è stata vero sbagliata. La Sasco, Sabia, vive sbagliata. E tante altre fatte, hanno fatto alcuni elenchi di quelle che sono le realtà locali. Non sono stati colpiti. Mi domando e chiedo. L'azione è arrivata prima delle abitazioni, tutte le arrivate prima delle abitazioni. Mi lascio solo aggiungere che sono una ventina le aziende assimilabili in Emilia Romagna delocalizzate negli ultimi 3-4 anni in Emilia Romagna. Fatto, il principio che sono arrivato prima in caso che sono state costruite a me non interessa. Lasci parlare. Il secondo è il mio geometra tutto, che è stato il geometra della ditta Geroni, se la signora usava quella tra l'hanno messo da una parte, mai così. Per cortesia non dica delle inesattezze, anche lei. Non dica delle inesattezze. La vicenda fra la ditta Geroni e il geometra Tundo è un fatto a sé, non è stato messo da parte. Dopo. Ma è mai possibile avere una data di lavoro? No, ma... Come si fa a un modo di fare il centro che, vuol dire, qualcuno ha autorizzato, è in situazione locale attraverso i suoi io non lo sento. E quindi, vuol dire, le domande, vuol dire, questi sono cittadini, a tutti gli effetti, che hanno ottenuto una situazione di cittadino. Quello più vicino al microfono. Allora, credo che, almeno per quanto sono conoscenze, non c'è solo un problema di costruzione. Non c'è solo un problema? Forse probabilmente non c'è solo un problema di costruzione. Quali sono? Perché la rottamazione in qualche misura, tanto ci sono gli appiccati, probabilmente delle macchine, presumo, no? Non credo che ci saranno... Come no? Ci saranno... No. Un attimo, no, perché, voglio dire, se no facciamo un colloquio o due, non c'è niente. Dopo, alla fine, io ho aspettato pazientemente, ho preso la parola, dopodiché lei chiarisse magari. Però ci sono anche degli aspetti che probabilmente anche qualche istituzione fosse valutata, comunque non si sa. Ci sono le povere metallo. Nel bene e nel male. Le povere metallo, sappiamo, ci sono dei soggetti che sono allergici al nickel, allergici al cromo, allergici a quant'altro, di tanto può anche attraverso le allergici del cromo essere molto. Allora, cioè mi domando e chiedo, ma un appello che faccio, ma lo rivolgerò poi anche alle istituzioni, cioè all'azienda UFO, all'ARPA, eccetera, come centro per i diritti del malato, che si faccia chiarezza su quello che viene disperso, ma monitorato, non a campione, voglio dire come ci siamo, perché a campione conosciamo tutti la faccenda del polo, no? C'è il 95 e il 90, per cui i controlli effettuati a campione lasciano sempre il tempo di ciò. Succede anche in ospedale, quando sentiamo che in una sala operatoria perché viene fatto un'indagine a campione nell'ambiente, poi c'è qualcuno che muore, dopo li portiamo in tribunale. Perché il campione non esiste. Esiste un controllo serio, codificato, che va nel tempo e va strutturato nell'ambito dell'attività di lavoro, dall'inizio fino alla fine, non alle 11, alle 10 o alle 9 di mezzo, perché a seconda di quello che comunico, più o meno, tutto l'arco della giornata. Tutto questo ha significato, è ovvio, c'è un sollevamento di popolo e non è di oggi, ho saputo che è da tempo che questo avviene, ma mi domando di più, sia da parte delle istituzioni che interpellerò formalmente, ma sia anche da parte dell'azienda, cioè è possibile che pur giustificando il fatto che ci sia un'attività guai al mondo, perché ci sono anche, voglio dire, c'è un'azienda che comunque fa un lavoro anche legittimo, ma che in un contesto urbano che ormai è diventato una condizione non più accettabile, bisognerà che un pensamento ci sia. Io credo che come ha risposto lei, perché lei rappresenta l'azienda, posso anche capirlo, però credo che ci debba essere anche, come posso dire, quella forma etica che in qualche misura dovrebbe essere, essere nell'essere dell'azienda, certo. Nell'interesse dell'azienda. Certo. Voglio dire, se in Sicilia o comunque spazi per l'Italia, confinito, sbatte fuori, chi va in pizza come dice, voglio dire, questo è un segno di diversa cultura anche del mondo, e anche la solidità deve essere un modo diverso di fare la tenda. Grazie. Grazie a lei, Giornale. Grazie. Posso chiamare la parola? Nini Nero del Movimento 5 Stelle. abiterebbe in quella zona lì, e se abitassi in quella zona lì cosa farebbe? Come reagirebbe? Io ho fatto una premessa iniziale, prima di fare qualsiasi esamina tecnica, dicendo che capisco perfettamente i vostri problemi e che la ditta Gironi capisce perfettamente i vostri problemi. Signori, allora, concordo quasi totalmente con quello che ha detto il Presidente dell'Associazione del diritto dei malati. Per quanto si attiene al discorso etico, guardi che la ditta Gironi da questo punto di vista non ha un capello che sgarri da un rispetto etico nell'ambito dell'esercizio della sua professione e dei comportamenti che tiene all'interno della ditta. Ci sono delle leggi che fanno delle prescrizioni, peraltro anche abbastanza severe, che la ditta rispetta appieno. Vede, il problema dei rottamari, dei commercianti di rottami, se è uguale per tutti, cioè a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, ce n'è un concentrato non indifferente, peraltro, rispetto al territorio nazionale, e sono, direi che la ditta Gironi, ma io vi invito ad andare a visitare gli altri, è un salotto rispetto, no, credetemi, guardate, il fatto che il signor Roberto Gironi giri con il macchinino da golf, ma nel senso che si cerca, per quanto è possibile, compatibile con un'attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, e parliamo solo di... Il macchinino lei dice che ci dà la compensazione il rumore e il transito dei mezzi. Il transito dei mezzi sono previsti nell'autorizzazione che l'azienda ha, signori. Ma non alle 4:30 del mattino. Allora, gli orari, vedete, questo è un discorso molto ampio, perché i camion della ditta Gironi vanno in acciaieria, vanno a Brescia. A Brescia accettano i camion fino a un certo orario, dopodiché i camion devono tornare dietro a caricare. Non esiste sul territorio nazionale un'attività simile a quella della ditta Gironi che non abbia gli stessi problemi, e ho usato il termine problemi, della ditta Gironi in senso di transito di mezzi, di orari. Devono andare da un'altra parte. E qui torniamo alla discorso iniziale, dove li mettiamo? Anche noi quando voi andate, dammi il permesso, lo stesso argomento che è stato offerto a noi a febbraio, si è presentato il rappresentante dell'azienda Gironi con ingegneri e i suoi responsabili, avvocato, non so, vennero a chiederci di costruire sull'area di via della Berletta contro casa nostra la barriera forma assorbente, una barriera forma assorbente come quella che hanno fatto in via Magellano. Il problema però è che la volevano mettere a 1 metro da casa nostra, 50 centimetri un metro da casa nostra. Dal momento che io per primo dissi fisicamente, ma esistono delle distanze di legge minime rispetto alle quali tu puoi costruire, e se così fosse stato l'avrebbero evidentemente fatto, avevano chiesto a noi la firma in carcere per la deroga a questo aspetto, e abbiamo rifiutato naturalmente. Perché la risposta qual è? Se io metto la barriera là non passo mica col camion. Allora, esattamente come a me, con tutto rispetto, voglio dire, io che abito lì mi dispiace che dobbiate andare fino a Brescia, ma non è un problema mio. Alla stessa maniera mi dispiace che non passi il camion, ma oppure la faccia con tutto il cuore, io non voglio. Ma io però siamo disponibili a comprenderlo, ma proprio prenderlo nella per carità del Signore, ma io temo che arriverà un'ulteriore ordinanza in merito, capito? Perché... Ritiriamo giù l'ordinanza, ritiriamo giù illegale, come il condono in area demaniale, sono quelle cose lì. Temo veramente che noi abbiamo delle prescrizioni di abbattimento delle fonti sonore, per cui voi costruite la sera, noi le tiriamo giù la mattina. Signori, sta scherzando, glielo pianto io. Purtroppo, vedete, della doccia, per l'amor del cielo, purtroppo, mettiamo in mezzo alla strada. La situazione si è estremamente compressa e inasprita dopo l'esproprio. Perché se voi ricordate, le lavorazioni della ditta Gironi una volta venivano fatte in fondo al Piazzale Grande, per cui la percezione del rumore che voi avevate era sicuramente inferiore. Dopo l'esproprio siamo stati costretti a spostare... Ma noi non siamo costretti a tenerli, le barriere ve le tiriamo giù. Le barriere ve le tiriamo giù dalla mattina alla sera. Beh, dopo poi sì, va bene. Glielo dico io, glielo metto io per iscritto. Per carità. Poi dopo vedremo, insomma. Questo non mi interessa assolutamente, perché le tiriamo giù. Può venire anche il Presidente della Repubblica, le tiriamo giù dalla mattina alla sera. In quanto volevo solo un'ultima cosa, per la questione, per l'area demaniale, dove avete detto che ci sono immondezze di tutti i tipi e quant'altro, noi abbiamo fatto... Non mi dica che è una bellezza architettonica quella lì, perché voglio sapere chi è l'architetto. Guardi, noi abbiamo fatto domanda di recintare, l'area da anni. Anche perché, un bordello così. Anche perché voi sapete bene che lì c'erano i campi, no, lì c'erano i Roma, c'erano gli Zingari, quelli erano nel parco, noi subivamo tutti in continuazione. Ma non si va a fare del genere, signora. No, ma guarda che noi abbiamo fatto domanda di disciplinare, il tutto da anni è un'area demaniale, quindi lasciatela libera. Lasciatela libera. No, abbiamo una concessione. Lasciatela libera, ma lasciamola al pubblico. Ma no, assolutamente. Come no, assolutamente. Parliamo un po', scusi, abbiamo potere. È una cosa demaniale. Allora, i gironi li hanno continuati a passare. C'erano i vecchietti che facevano con gli orti, li hanno mandati via. E gli attori. Ma c'è una concessione demaniale che è stata concessa, che viene pagata. E che, vabbè, questo, signori miei, voglio dire, è legittimo che la ditta Gironi ce l'abbia, perché visto che viene in questo caso. Ok. Posso intervenire un attimo? Scusate, aspetta, la regola non so. Adesso c'è il comitato della Berletta. Allora, aspetta, la regola non so. Io volevo sottolineare una cosa. Intanto, la soluzione che avete trovato con quella barriera forzamente, mi aggiungiamo, e evidentemente non è esaustiva, non è servita a nulla, tant'è vero che abbiamo una comunicazione scritta del dottor Maiotti dell'AS che certifica che nonostante le barriere forzamenti il rumore è esageratamente enorme, cioè a volte non mi dite, e questo certifica una lettera ufficiale. In più il discorso che lei dice che secondo lei il comune emanerà una nei vostri confronti come soluzione per noi, quella di dirigerci davanti alla casa, un'altra barriera funzionale come quella di credo non sia proprio pensabile. Cioè io credo che il comune possa emettere un'ordinanza che voglia fare una cosa contro legge, perché lì non ci sono le istanze legali, per dirigerci un po' avanti. Allora, o deve dirigere attento alla sanità, alla misura. Vabbè, d'accordo, quello. La vostra per passare quello che allora non è che trovare una soluzione sinergica tra istituzioni, noi il comitato e l'azienda, per la soluzione che va per tutti, cioè magari trovare un luogo che possa essere per voi adatto per continuare queste collaborazioni al meglio, e anzi la vera possibilità no, e lì finalmente abbiamo già fatto il progetto di restrizione dell'acqua. Abbiamo già fatto il progetto di restrizione dell'area. Per il quanto sarà la distanza dalle case? Di legge. Cioè? Quant'è? Non ci siamo. 5 metri. 5 metri? 10 metri. 10 metri. 5 non va bene, adesso 10, ma la 6 comunque sarebbe molto interessante da parte delle persone del comitato sulla costruzione. togliere la cosa, sempre qui un piccolo passo per mostrare che non è vero. Me lo promette, signora? Me lo promette? Guarda, scusa, me lo promette? Lei ha detto una cosa dalla quale io me lo promette? Mi dissocio e ti sento. Non è vero che l'azienda non me ne frega niente. Me lo promette? È un'affermazione pesante, e insostenibile e grave che lei sta facendo, perché non è assolutamente vero. Guardi che gli è già stato detto da 15 anni di non accendere i camion alle 5 del mattino. Di mi conseguenza... creda che non gliene frega niente, non è vero. Allora, ecco, perché hanno fatto... Allora, possiamo fare una cosa? Possiamo fare una cosa? Possiamo fare una cosa? Signora, signora, signora, signora, io ritiro il se ne frega e lei mi fa una promessa che d'ora in poi non accenderete più i camion alle 4 e mezza del mattino. Ho qua la mano, guarda. Io intercederò per ho qua la mano. Fare con il signore personalmente, non me lo può anche. Allora? Ecco, intercederò sicuramente per la gente per questa no, giuro che non abbiamo niente. E a che ora abbiamo questa? Alle 7 del mattino. Minimo alle 7 del mattino che uno possa anche dormire. Alle 4 e mezza di stamattina che sono sveglio, signora. Io lavoro 12 ore al giorno, signora. Come si fanno a capire da cittadini che questi sono un territorio diciamo abbastanza normali, vediamo cosa succede magari in un piccolo condominio per la polvere di copertina. Ma questo è tonnellate. Lo scroll della tomaia che abbiamo visto figurarsi in ambiente di questo tipo. È stato un primo incontro quello a cui abbiamo voluto farvi partecipare. Se ce ne saranno altri avremo piacere e l'onore di ospitare tutte le parti naturalmente in causa, perché un conto di vittoria che sono da soli è una contraddizione interna del prossimo, quindi è doveroso da parte nostra e a essere seduti. Questa sera abbiamo chiesto come da volantino all'inizio se avete letto sotto c'è un piccolo logo del Movimento 5 Stelle, non è una questione politica, non è un movimento di cittadini liberi come sono io, come siete voi, proprio perché non hanno il cappello rosso, nero o giallo, si avvalgono di tecnici e aiutano i cittadini a risolvere alle volte proprio questioni di questo tipo. Hanno creduto in noi nel senso che quando facevo la prima serata, in questo senso chiamavamo così, perché noi non sapevamo dove andare a fare la testa, abbiamo chiamato mille volte i vigili, i carabinieri, la polizia, non si era mai fatto lì con nessuno, ci siamo rivolti a questo movimento e si è presentato l'intero movimento regionale nelle persone appunto di Giovanni Fabri, eletto come consigliere regionale in Emilia Romagna. Qui abbiamo presente Andrea De Franceschi, secondo, cioè l'altro, non secondo in termini di importanza, ma due erano due domani, Paolo e Andrea, questo gli dicevo che era la vita della parola perché ha piaciuto e ha preso tutti fino a questo momento, vogliamo sapere cosa da dire. Grazie per avermi venuto. Grazie a te. Io ho ascoltato molte cose interessanti, anche su quelle di là praticamente. Io credo che un dato fondamentale che pensavo prima di entrare in questa sala che fosse innegabile, invece visto che si prova insomma anche in una certa ottica aziendale che non conosco benissimo a negare, è che ci sia un grosso problema. Allora non possiamo negare che ci sia un inquinamento acustico, perché i camion li abbiamo visti tutti, voi li avete sentiti tutti, io per fortuna non dormo lì, che si accendono alle 4 e mezza della mattina. C'è un inquinamento atmosferico indubbio, sia per i lavori che vengono fatti lì, sia per il fatto che un camion acceso alle 4 e mezza della mattina e poi parte alle 5 e mezza, alle 6, credo che chi è più bravo di me sa facilmente calcolare che quantità di smog distribuisce su tutte le case davanti, che tra l'altro sono circate da barriere, quindi l'aria può uscire solo da una parte. C'è un inquinamento luminoso, il suo intervento che non ne parla mai nessuno, ma l'inquinamento luminoso è uno dei nuovi inquinamenti nel senso. Ovviamente si sta diffondendo da poco tempo ed è un inquinamento che tutti sottovalutano, perché c'è un inquinamento molto importante. E questi fari accesi li abbiamo visti perché noi ci siamo stati di notte in questo posto. E c'è poi un grosso problema di passaggio degli automezzi in una zona che francamente non li può più tollerare, ma al di là proprio del vostro quartiere, se io penso anche dopo, perché sono sulla via, non sono via Emilia Ponente, dopo devo entrare in autostrada, credo che ormai la questione del traffico di Bologna anche in quella zona la conosciamo tutti molto bene e sappiamo che non può tollerare un tipo di traffico del genere. Ho sentito nella difesa d'ufficio, anche coraggiosa, anche semplicemente per il fatto di essere stata qua, della consulente della Gironi, anche alcune contraddizioni insomma, che esprimono un po' la difficoltà, perché questi camion da 2 poi diventano 10, prima ho sentito dire che partono alle 7 della mattina, secondo la signora, le macchine sono visti che partono alle 4 e mezzo, qui bisogna anche quando si confronta con i cittadini, bisogna anche che ci sia un po' di chiarezza e anche un po' di rispetto in questo senso. No, però lei ha detto che i lavori iniziano alle 7 e iniziano alle 4 e mezza. No, dovrebbero. No, l'ha detto lei prima, è registrato. Ma non è questo il punto. Io faccio solo un invito di rispetto e di comprensione nei confronti di quello che sono i loro problemi. E non mi è piaciuto neanche il discorso che ha fatto della guerra su chi c'era prima e chi c'era dopo. A parte che è inoppugnabile che ci siano delle case che siano prima dei lavori di come vengono fatti adesso e sulla base dei quali sono state date le autorizzazioni, però anche questa guerra francamente secondo me lascia molto il tempo che trova. La realtà è che quella è una zona che è stata adibita a zona residenziale, non entro nel metodo di chi abbia dato le concessioni perché per quelle se ne vedono di tutti i colori, resta il fatto che la situazione non è francamente tollerabile. Quando lei mi parla di ispettori del territorio che sono venuti ripetutamente, francamente mi vengono i brividi, perché se lei mi dice che sono venuti più di 2 ispettori in quel posto, hanno decretato che va tutto bene, ho francamente molti dubbi su come ci venga gestita e tutelata la salute pubblica in questo comune, in questa provincia. Perché questi ispettori non dovevano neanche muoversi dall'ufficio, Nick gli mandava il video, se lo guardavano e avevano già lavorato. È innegabile, che non si possono negare le cose che sono scritte in quel video. Come pure state molto attenti quando parlate di etica e di sicurezza sul lavoro, perché quel video l'abbiamo visto anche noi, che delle persone che senza casco, senza determinate misure di sicurezza passano sui ganci meccanici. State molto attenti. Il piano provinciale. Non entro nel merito, mi riservo di indagare, trovo francamente molto difficile che con tutte le cose che si fanno e si pianificano a livello provinciale, a livello regionale, non trovi un posto per voi. Perché questa regione si trovano i posti per gli inceneritori, si trovano i posti per le discariche, si trovano i posti per centrali a biomasse, si trovano i posti per dove ci sono delle strane volontà che credo che non lo vogliono far trovare. Concludo. Ma io credo che la ditta Gironi però evidentemente ponga anche qualche paletto strano, qui entro perché me l'ha spiegata lei un'altra sua contraddizione. Lei mi dice che non vi potete spostare da lì perché voi lavorate in zona, avete clienti locali, dovete servire localmente. Dopodiché si scopre che lo si cambia in parte e vada a Brescia, perché credo che ogni posto poi vada a Brescia. No. Vorrei che dovete stare per forza lì in via Magellano perché lei ha detto basta che non mi trovi in un posto troppo scomodo perché io devo lavorare con la gente in zona. Ho detto che deve essere in una zona compatibile con la posizione geografica in cui si trova ora. Non ci potete rinunciare. Ma deve essere prima cosa compatibile con la salute delle persone. Con la salute della gente. Non si può. Scusatemi per cortesia, ma la ditta Gironi potrà porre qualche piccola condizione ad un'eventuale delocalizzazione. Sentite domande o no? Scusi, ecco, abbia pazienza, perché non ci possiamo andare a Ravenna. Ci sono condizioni quando si fa delle cose di quel genere. Perché? Perché le persone la devono campare, devono vivere. Guardi, questa è una cosa. Ma le cose abbia pazienza. ma le cose le ritirano che dobbiamo passare in mezzo alle case. Ho fatto una premessa, ma io sono lì spessissimo, l'ingegnere di tutte le settimane. Mi venga a trovare in via della Berretta 33. Allora, cioè, io ho fatto... Mi venga a trovare. Guarda, l'intervento che lei sta facendo, poi vorrei poter contraddire. Anche io vorrei poter... Chiedo scusa, finisca e poi prendo la parola. Il punto fondamentale è che qualunque siano le vostre problematiche, cioè, io capisco che sia anche un margine di contrattazione con le istituzioni, però quando lei viene a dire e lei rappresenta un'azienda privata, sono le istituzioni che mi devono trovare un altro posto, io lo trovo anche questo molto singolare. Ma veramente, ma lei sta dicendo... Ma lei sta dicendo delle cose. Io ho detto che l'azienda si è resa disponibile alla delocalizzazione, ok? E che nel piano regolatore, nel PSC, non sono state trovate aree idonee a quel tipo di attività. Perché quel tipo di attività non possono andare neanche, e ho fatto l'inciso, in zone artigianali e industriali, non tutte perlomeno. Però deve stare in un centro abitato. Signora, guardi. Ha detto che io sono andata a parlare molte volte con Venturi, non ho detto che Venturi non le ha provate, abbia pazienza. C'è una pianificazione del territorio, c'è un ufficio tecnico della Comune di Bologna che fa i piani regolatori, ma lei vada, se le fa, abbia pazienza, ma scusi, ma non ho capito. No, guarda che una persona pubblica può fare il nome, non è il governo della segreta di tutto. No, non ci sono proprio. Sì, ma mi pare che... Ecco. Allora, vorrei precisare che lui... Stavo parlando col suo collega. No, ma guardi, si rilassa. Non è vero, assolutamente. Si rilassa, non è vero. Signori, guardate che per chiarezza, l'unica area che il comune... e qui rispondo ha posto come alternativa alla ditta Gironi è stata quella dell'aeroporto. Il comune all'epoca, chi parla, io vorrei sapere chi è il suo interlocutore, che così ci le persone anche, che sono avranno un nome e cognome, visto che lei mi frequenta così tanto se lo ricorderà. Ma è pazzesco. Allora signora, guardi che a Bologna purtroppo di queste realtà non abbiamo solo la ditta Gironi. Allora purtroppo molto vicino a voi ci sono altre due realtà che sono arrivate. Allora è un problema che evidentemente non è prioritario. Un minuto, finisco di dire le mie inesattezze. Mi stupisce che lei non riesca a darmi il nome del suo referente, visto che vogliamo trovare una collaborazione tutti insieme. Io sono all'interno delle istituzioni. Ma i responsabili degli uffici tecnici. Beh, ma abbiamo il dottor Capozzimati, abbiamo l'ingegner Bertocchi, abbiamo l'ingegner Petrucci, il geometra. Beh, ma sono personaggi pubblici, eh? Ma scusi. No, ma facciamo un giochino la settimana in parlare della citazione. Una mano insieme. Ci diamo una mano alla ricerca. Faccio fatica a credere che non abbiano trovato un'area adatta a voi. Questa è la realtà, però. Mi viene il dubbio che no. Voi mettiate dei paletti, ma così non ci si interessa. Però mi faccia parlare loro per volta. Però io glielo do anche per buono. Indipendentemente dal fatto del posto, io gli do per buono che lei sia molto interessata a trovare un'altra soluzione, un altro posto. Lei non me lo dà per buono, è la realtà. Scusi, ecco. Questa è la sua realtà, però lei sta cercando di farlo assieme alle istituzioni. Questo gioco per cui da 15 anni voi non lo trovate. Non sa di cosa parla, però scusi, abbia pazienza. Cioè, io non lo faccio insieme alle istituzioni, sono i piani regolatori che mi vedono di visitare le aree. Mica me le posso andare a spunciare io, anche voglio andare lì. No, ma guardi. Scusi. Che questo succede anche per altri tipi di aziende che vengono installate. Lo so le aziende bene. Discutono con le istituzioni, con gli assessori, con gli uffici tecnici, dice io vorrei fare questo, me lo trovate un posto. No, allora, non è la ditta Gironi, non ha questa facoltà, ha capito? Ecco, visto che lei sta insinuando... Ma perché non ne parlate con loro? Questa facoltà, la no, ma siete voi che dovete parlarne con loro, perché se no non potete aspettare che siano loro a venire a chiedere... Ma lei sta scherzando? Ma lei sa che stia scherzando? No, ho detto prima che sono 15 anni che sto lavorando e battagliando per questa cosa. Ma non lo deve fare solamente se siamo qui per la ditta Gironi, è un problema generale. Resta il fatto che la colpa sia vostra, che la colpa sia delle istituzioni, resta un fatto fondamentale che non possiamo negare. Una situazione del genere, anche solo guardando il video, lei mi deve ammettere in scienza e coscienza, indipendentemente da chi le dà lo stipendio, che non è ammissibile all'interno. Immagino che lei la fattura e qualcuno io le faccia sul suo conto corrente. Indipendentemente da chi le fa il versamento sul suo conto corrente, così lo ribadisco perché se lei si cerca. Ciao la colletta, io vorrei che lei ammettesse in scienza e coscienza che in quel posto non può stare una struttura del genere, cioè che questo deve essere il punto fondamentale da qua poi a pertanto io mi impegno a sentire a livello provinciale e anche a livello comunale, soprattutto con un'interrogazione in regione per capire come mai non si voglia affrontare questa soluzione. Resta il fatto, ripeto, che questa situazione non è tollerabile, che l'ultima analisi dell'acqua di cui lei non ha più parlato ci dà dei rilievi acustici intollerabili e non facciamo passare anche 15 anni, troviamo una soluzione per lui. Adesso, 73, adesso passo la parola a Federica Sassi, che era consigliere di Napoli, che ha affrontato una situazione simile di una fabbrica, di un'azienda anche qui in Salve, e magari ci sulla loro esperienza, leggermente diversa perché era il suo modo sì. Grazie Andrea. che ha fatto con gli termici, Regione ha visto l'esplosione come la dissente, perché c'è una disculpa, nel 2008 ha avuto un risultato di palazzi sinistrali, 100 di stanza. Una pubblica amministrazione che fa una pianificazione di questo tipo è folle, una pubblica amministrazione è folle. Oltretutto, ritornando al discorso degli ispettori, dell'arte, tutto quanto, questa azienda si fa, adesso è stata diffidata, perché non ha presentato la documentazione della valutazione di rischio. E 2 anni, questa azienda è una classificazione come la FISA, che non ha presentato la documentazione sulla valutazione di rischio. 2 anni fa questo nuovo questa azienda. Ora, io so che altro, SL, quant'altro si impegnano, ma io credo che il lavoro che questi enti fanno su poco, la provincia comune, sia insufficiente, profondamente insufficiente. Non è che non è perché è insufficiente, però è decisamente insufficiente e inadeguato. Quindi, nel momento in cui un'azienda come Geoni che rappresenta mi dice noi siamo in mia regola, viene da dire per forza, con i non controlli che vengono fatti, si trova un po' di tempo adesso. Finisco poi dopo potete replicare. Quello che secondo me adesso è importante fare è cercare un percorso condiviso con i cittadini, ma soprattutto le istituzioni, che sono quelle che devono intervenire per un'eventuale organizzazione, per individuare le donne. Io so benissimo che è un discorso molto difficile quello di individuazione delle donne, perché nel momento in cui una donna individua la donna, poi se si parla di un altro comune ricevente, l'altro comune deve essere d'accordo, se i cittadini sono d'accordo, la realtà deve essere interessata, ma anche un edificio, sempre più Borreno, è andata a carta 48 perché i cittadini sono soldi, ma lì secondo me è stata un'altra gestione, se vuole politica, fatta in maniera non sbagliata. E lo stesso abbiamo con la costruzione che era da noi due in piedi per organizzarsi, la proposta tra siti ancora la provincia, in un luogo con la provincia, ancora la provincia è stata in grado di coordinare un tavolo per l'organizzazione di questa azienda. Io personalmente non so quanto una parte la gente veda ci mangi sopra e quanto l'altra sia efficiente da parte della provincia, però io credo che se la volontà dell'azienda di organizzarsi c'è, io credo che si possa continuare a fare delle proposte se a livello di territorio ci sono aree destinate, guardando anche la periferia compatibilmente con quelli che possono essere gli spostamenti dell'azienda, per suggerire ulteriori proposte anche a livello provinciale. Ma in tutti questi percorsi devono essere presenti le istituzioni, i cittadini, attraverso la conferenza dei servizi sociali, in maniera tale che si possa veramente avviare un percorso. Per quanto riguarda l'esperienza di io passata, è un percorso dove comunque se c'è la volontà di farlo bisogna essere pressanti, perché se si è sempre che le istituzioni intervengono, non funziona così purtroppo, non in questa regione, ma in questa provincia. Guardi, io sono assolutamente e totalmente d'accordo con lei, tranne su un punto. Sono d'accordo con lei per quanto attiene al rapporto che ci deve essere con la pubblica istituzione, che è una pressione che noi abbiamo sempre fatto. Ma veramente, ci dovete credere in questa cosa, non è che voglia sia qui come in qualità solo di difensore della vita di noi, ma spero e penso di essere più obiettiva possibile. Abbiamo percorso tutti i tracciati possibili, anche perché voi potete ben immaginare il costo che ha per un'azienda sopportare controlli in continuazione, noi li possiamo documentare, ci sono i verbali, quindi sono non è tutti, cioè, controlli in continuazione. Guardi, io faccio la consulente da tantissimi anni, io non ho mai visto un'azienda così tamburellata, usiamo questo termine, come quindi non ho mai visto una roba, però sono portato un dato, non ho interesse a me. Ma per l'altro, i controlli degli alimenti per la salute sono dovuti, io lavoravo in una concessionaria, quando tutti gli anni degli alimenti mi visita, è dovuto. I controlli, chi fa speciale, è dovuto, atto dovuto, sarebbe un disabilitato d'ufficio se non li facessero, non un appellamento. Il medico l'abbiamo anche noi. ormai invece ma ci mancherebbe altro, le norme di sicurezza, lei ha visto un dipendente senza un sembra che ci faccia questo, non per diversi quello che dico, non mi fraintenda così. Ecco, questo nonostante la formazione, nonostante ci sia l'ingegnere dentro tutte le settimane a occuparsi della sicurezza sul lavoro, a livello documentale, sul testo, hanno di tutto di più, poi è chiaro che qualche dipendente qualche volta c'era anche stamattina sotto il bagno, girate per strada, è una cosa normale, girate nei cantieri, ma è lo stesso, noi siamo molto severi in questo senso, però non siamo i peggiori, ma amore vediamo, no, non è questa mia, grazie a Dio, però dovete andare a fare più di 5 minuti e si chiudono la sala. Noi crediamo in questa sede di avere esposto le nostre tematiche e anche avere il processo di dovuto, giusto di contribuire in altre. Ci saranno altre occasioni, sono in questa sede le individualmente ne vedremo altre e se ci scambiamo con gli ingegneri ci conosceranno diciamo di infanzia. Quindi ci possiamo giocare perché ci teniamo a vedere questo tipo di contraddittorio. Gli ultimi 5 minuti collaborazione, quindi mano stretta, vabbè, ci fa una mano stretta. Allora, andiamo per la legge che purtroppo ognuno a casa sua ha i suoi problemi, si è venuto a trovare un ospite del quartiere Santa Rosa, siamo recente, stiamo parlando della Sintesca, l'azienda che costruisce, che fabbrica di tubi, quindi spiagge, sassi, grippi di asfalto a caldo e poi vende questo prodotto, quindi anche questa è il caso di un'azienda legittima che fa un prodotto che serve tutti i giorni. Solo che Paolo Marini ci ha chiesto che gli consigliamo voi di qualche minuto la parola perché si associa per alcuni aspetti di questa tematica di rimbalzi che ci ha visto tutta la sera. Paola. Allora, non sono più Paolo a parlare perché sarete qualche incertezza, ma soltanto veramente un minuto. Il problema è che la Sintesca è a due passi dalla Liana, dalla Guava Piera dove tanti e in linea d'aria qualche centinaio di metri. Lei produce asfalti nella zona di via Agucchi. Scusi, ne abbiamo due allora noi. Sì, ne abbiamo due, c'è una anche di fianco e una dall'altra parte. C'è anche la per non farlo la camminata. Prima non parlava la linea di Cassassi, no? Tre. Praticamente siamo in una zona limitatissima, e guardate la zona della Viola, Santa Viola come Agucchi era Sintesca, e la zona della Vila dove c'era prima la Federica è un esempio di come non si fa urbanistica in una città. Cioè, è impressionante che ci siano vite altamente inquinanti in zone residenziali, anche se le zone residenziali sono arrivate dopo, c'è poco da fare, non è un paese civile, un paese che permette queste cose. Quindi noi tutti, credo anche le disque stesse, abbiamo l'interesse di cambiare questa situazione, perché finché c'è questa situazione qui, i cittadini hanno il diritto di muoversi, hanno il diritto di creare situazioni come questa e anche altre che possono coinvolgere anche l'ambiente politico e le strutture politiche. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie. Sostanzialmente nessuno, credo, è interessato a rafforzare il fatturato Italia per l'ultimo momento. Si tratta solo di trovare soluzioni compatibili, non scuse banali. Max Bugatti. Grazie. Io per concludere devo fare un invito proprio a voi, cittadini residenti della zona. giustamente Antonia cerca di difendere il loro lavoro, quello che fanno, e quindi per quanto si possono fare promesse di andare con la provincia, sì, probabilmente ci andranno anche, si spera, ma sarà difficile che senza la nostra pressione costante, che sicuramente c'è stata, però dobbiamo continuare a aumentare, perché il fatto che siamo così vicini, siete così vicini alla Gironi, è un enorme svantaggio per quello che vi respirate, per muore che sono 4 e mezza, ma è un vantaggio se iniziamo ad avere una bella pressione a livello di foto, filmati, stiamo a cosa, non perdiamo un secondo, perché è vero che dicono non possiamo seguire costantemente a livello di sicurezza, perché, ma ci siamo noi, perché purtroppo siamo attaccati, quindi questa pressione costante, anche se abbiamo la nostra vita, il nostro lavoro, è difficilissimo, però dobbiamo sforzarci, chiamate più spesso anche noi, quando avete qualcosa di strano, perché loro devono essere invogliati, purtroppo, perché non ne potranno più della nostra pressione, a fare a loro volta una pressione maggiore sulle istituzioni. Se noi cediamo, come si fa a dire che loro non hanno ragione a dirci con un sacco di soldi, un problema, quindi abbiamo il nostro giro di clienti. Sta a noi, pressare, stare addosso, in modo che anche loro possano fare tagliare. Noi abbiamo avuto degli splendidi interventi circostanziali in quanto persone che appunto vengono da qui da una vita. C'è qualcuno che desidera porre domande o affrontare ancora aggiungere qualcosa di cui non si è parlato? Prego. Siamo a 50 centimetri. Io mi chiedo, ma che è il valore del mio immobile, perché adesso abbiamo anche questione di testimoni, il valore del mio immobile, chi è quello che se lo viene ad acquistare con davanti la barriera di Gironi, con tutto quello che ha? Il deprezzamento. Cioè, il nostro può essere deprezzato, loro vanno da te perché non vanno a spendere dei soldi. Probabilmente no. Probabilmente no. La domanda che le ha fatto il signor Nicola Telecamera. E penso di avergli risposto. Io ho risposto facendo la premessa iniziale, capiamo perfettamente i vostri problemi, assolutamente. Lo sa quindi perché non ci bisognerebbe. Metteteli in pratica. No, non ci bisognerebbe. Metteteli in pratica. Lo sa perché non si trovano le aree? Perché quando vengono fatti i piani regolatori, i cosiddetti piani regolatori, queste aree, le cosiddette zone di 4 o di 8, come dir si voglia, sono aree proprio per attività a cielo aperto, si chiamano così, oppure devono andare in particolari zone artigianali industriali. Quando io identifico un'area grande, perché parliamo di migliaia di metri quadrati, no? Per attività a cielo aperto significa che io sottraggo all'edificabile dei lotti non indifferenti. Allora, voi sapete che quando si fanno i piani regolatori, il più delle volte i grossi costruttori sono seduti e dettano un po' le condizioni, ok? Perché sono i comuni che non prendono i soldi per l'urbanizzazione. Certo. E le mazzette. Dettano un po' le condizioni, per cui nessuno ha interesse a mantenere dei lotti per attività a cielo aperto. E allora ci dicono, andate nelle aree artigianali industriali, dove comunque ci sono i capannoni. Queste sono attività che sotto capannone non si possono fare, perché ci vogliono capannoni alti 10 metri, Ok? E che cosa succede? Ma cosa succede? Lei ha idea, signor Zucchetti? Quanto costa se io vado a prendere 30.000 metri quadrati di un'area artigianale industriale? Io voglio vivere, io non voglio respirare la vostra polvere. Allora se voi andate per esempio, vi faccio un esempio, se lei va nel comune di Granarolo o nel comune di Gradiano, o nel comune di Ozzano dell'Emilia o nel comune di San Lazzaro, tanto per citare quelli che ci circondano, nel comune di Casalecchio o di Sasso Marconi o di Crespellano, penso che avete detto più o meno tutti, tutti ci dicono andate nel comune di fianco, perché tutti hanno deliberato in un qualche modo con delle delibere comunali per non ammettere nuove attività di quel tipo, ma per ampliamento di attività esistenti. Quindi non sappiamo dove andare se non ci dedicano delle aree. Facciamo pressione comune. Capito? Cioè, quindi, l'ottica è quella, non lo scombo. Facciamo pressione comune. Quindi il nostro interlocutore, come si chiama? Andrea Francesco. Il signor De Francesco. Andrea De Francesco. Il signor Francesco che dice, le pare strano questo? No, non è strano, purtroppo è la realtà. È la realtà, ma è la realtà appunto che non solo noi non troviamo un'area per la vita di noi, in questo caso quando sono 30.000 metri quadrati, è facile, cominciamo come la sintesca, delocalizzare, l'ho seguita molto da vicino questa vicenda, delocalizzare la sintesca non è cosa semplice, il comune dove avevano previsto è, c'è stato un comitato cittadino che ha detto non ne parliamo proprio, ma noi non riusciamo a trovare, e qui ci sono i colleghi e anche gli altri che lo sono, non riusciamo a trovare 3.000 metri quadrati. Io ho un altro commerciante di Rotani che sono 3 anni che cerca 2.000-2.500 metri quadrati e non li troviamo, perché anche nelle zone industriali se io non ho la destinazione di uso in donna non mi ci voglio. Allora, la zona industriale non la vogliono senza destinazione di uso in donna, una zona invece civile con un'abitazione di 50 centimetri quella va benissimo. Prima stavo cercando di parlare di altre due aziende, voi mi avete detto siamo qua per la Geroni, poi le altre due aziende le avete tirate fuori voi e una era Sinistra. Dicendo che il nostro obiettivo è quello, semmai, non di cercare uno scopo, ma una manovra. Quindi, indipendentemente dal tipo d'azienda, non accetto come cittadino e contraddicente, non accetto che un'azienda addica scuse del tipo, lei può essere la presa per cui accetto le 5 del mattino, non mi vuole per cui è caro lì, e non so come fare 15 anni fa. Io, dal mio punto di vista, dopo 20 anni le prendo come palle. Stiamo un attimo sviando dal discorso che stavo facendo. Quando un comune legittima il problema della sintescale, io ho parlato con ARPA molte volte, allora chi ha dato il permesso di costruire un asilo di fronte alla sintescale? Voglio dire, sono anche questi i problemi che dobbiamo porci. È stato autorizzato in via Lucchi, e io lo dico con, perché voglio dire, lavorano meravigliosamente, ma uno dei più grossi impianti di stoccaggio di rifiuti tossici. In via Cucchi c'è un transito veicolare solo per quelle due aziende di 200 metri al giorno. 200, solo per quel più. Quasi il doppio che da parte di casa nostra. No, non sono 100, adesso non esageriamo. Una cinquantina, 60, no, tutti i giorni, 160. Se vuole le faccio il conto a casa. Vediamo il conto, che vedremo il conto esatto. Quindi voglio dire, però l'hanno autorizzata e ci sono le abitazioni che si affacciano. Ha capito? Allora, e questo, e qui la signorina o la signora di prima ha sollevato il problema in maniera correttissima, perché danno i permessi, per cui parliamo di permessi rilasciati 40 anni fa, le situazioni erano diverse, poi l'azienda si è adeguata, si è strutturata e si è industrializzata. Ecco. come? Mirko, me lo devo tenere io al mio pensamento. No, per carità, ma cioè, lei ha ragione, cioè, voglio dire, lei ha perfettamente ragione, però voglio dire, allora scusi, sa, lei voi giustamente dite noi non ci poniamo i problemi e non ce ne può fregare di meno dei problemi della ditta Gironi, perché questo è il succo e la sintesi un po' anche di questa serata. Allora no, nel senso, se devono andare a Brescia, beh insomma dai, via. Ma non devono lasciare accesi alle 4:30. Però pur signore Nanni, pur comprendendo perfettamente il suo problema, e mi creda, sono assolutamente sincera, però è anche vero che la ditta Gironi non può porsi problemi se non quelli di legittima collaborazione, di trovare dei punti eventualmente d'accordo, ma non può certo porsi problemi del depressamento delle abitazioni. Ma li possiamo trovare, non dovete fare rumore. Prego, ma non si può fare. Ma come non si può? C'è una legge ben precisa. Il concetto fondamentale. No, ma non servono niente le barriere. Ma non posso movimentare i portali senza fare rumore. Vedi, dovete andare. Ma abbia pazienza. Il concetto fondamentale non è che sono loro. Cioè, dovete andare. Il concetto fondamentale è che loro se ne fregano della situazione. Io capisco che questo non sia una competenza, ma come perché dire, lei loro estrapola in maniera distorta, perché lei non è riuscita a farmi dire una frase, perché non le lascio esprimere il suo pensiero, mi dica la frase così gliela completo io. Come il signore frega, ha no, lei deve no, usare di nuovo la parola frega, ecco, certo, come il signore ha detto io me ne frego del problema di Brescia, se devono partire. No, però io, non è un problema mio. Io ho fatto un discorso. Se devo essere a Brescia alle 6. Così come non è un problema vostro. Andate a fare tanta tangenziale alle 4 del mattino. Così come non è un problema vostro, mi avete detto, se la Gironi deve spendere una barca di soldi, Avete detto che non me ne frega niente. Allora, o no? Sì. E allora? Io ho detto. Non sono loro che se ne fregano della Gironi. Loro se ne fregano della loro salute. Certo, perché ragazzi. E io sono d'accordo anche con lei che lei non è la titolare, e la Gironi non è la titolare a far sì che loro siano in salute e siano santi. Quello che però stiamo dicendo. Ma santi Dio, io non guardo. Ma non questo lo chiedo, non mi assumo la responsabilità. Se ne assuma la responsabilità. Ma vedi, lo capisce l'italiano giusto. Io ho usato le mie parole e io le dico. Penso che lei non sia, che la Gironi non è, la titolare a il governo della salute pubblica. È un'affermazione mia, abbiamo un po' di sapere. Vado avanti. Resta il fatto che se voi non trovate un fronte comune, io sospetto che prima o poi vi toccherà in qualche modo o chiudere o convertire una parte, che lei già comincia a dire che dovete rientrare di 10 metri, quindi i cani non passeranno più. Poi il fatto di violare l'inquinamento acustico del 50-60% sotto i valori di legge, in un paese normale quantomeno, non sarebbe uno scherzo e potrebbe portare dei problemi, questo spero che lo ammetterà. Allora il consiglio che vorrei dare, non cerchi la contrapposizione sempre col comitato e cerchi di confutare o di smentire quello che loro dicono, no, ma c'è la parte di noi, no, ma siete arrivati dopo voi. Lasci perdere, è benissimo che le istituzioni, come hanno già detto tutti, fanno dei piani regolatori che sono tra il folle e il criminale, e anche il fatto che l'abbiano fatto così, quello che deve essere anche come diceva lei all'inizio, è una follia di mente. Ma quelli hanno firmato, Sì, ma no, indipendentemente un amministratore normale non può accettare la concessione di di quel posto di hanno fermato quelle cose, è che ormai dobbiamo significare dappertutto della logica di centri commerciali. Però se voi non trovate una soluzione comune per andare avanti, non andate da nessuna parte, e temo che la loro salute non migliorerà e non saranno meglio perché sono ormai qualche decina d'anni che sono così. Ma credo che anche voi abbiate dei grossi problemi. Secondo me sarebbe il caso forse di unire le forze, presentarsi appunto le istituzioni e dire: noi siamo troppo piccoli, troppo deboli per avere questa voce in capitolo con le istituzioni. Porti assieme al comitato, porti di firma ai cittadini, vada dall'assessore provinciale, però perché oggi le gente intorno a Bologna, non è che purtroppo Bologna è già soffocato, ogni dubbio che riescono davvero a trovare un'area, come dice lei, ma lei pensa che io la voglio. No, no, sto dicendo, esca, andate dall'assessore provinciale. Ma lei pensa che non l'abbia fatto? Sì, no, sto dicendo una cosa nuova, un suggerimento nuovo. A chi? A io, a lei. No, no. No, io le stavo dando, un suggerimento nuovo. Già fatto, non l'avete ascoltato? Lei non l'ha ascoltato, ma poi aver fatto qualcosa che non ho ancora detto, che non ci permettiamo di nascosto. Lei, oltre ad andare lei con i suoi tecnici in provincia, come ha già fatto, io le giorno che andata, non so dove siete stati, si porti dietro anche l'unità, si porti dietro le firme, si porti dietro i filmati, i documenti che l'hanno scritto. E vada a dire all'assessore: signore, noi siamo in difficoltà perché non riusciamo più a lavorare, stiamo superando i valori di legge, abbiamo le strade che dobbiamo chiudere, ci stanno restringendo la zona, la gente non ci sopporta più, abbiamo questo problema. Proviamo, azienda, cittadini, istituzioni, sono semplice così. L'ho già fatto. No, qualcuno di voi compresso è uscito con la signora e lo andiamo a vedere. Non capisco. E voi avete capito cosa ho detto? Allora, è tagliato. In questo modo qui lei non va da nessuna parte, perché lei non dialoga, non ascolta. No, no, ma guardi. Lei deve ascoltare, ma non quello che dico io che sono un cretino, ascolti lei già. Purtroppo io penso che siamo anche disponibili a questo, ma è una strada che abbiamo già percorso. Ma con chi? Da sole la vogliamo sapere con chi? E forse lei deve sapere. No, io non c'ero. Io ho fatto 4 mesi che sono. Ci fu un altro articolo sui giornali, l'ho anche conservato, ma non c'entra niente il giornale, un articolo non serve assolutamente niente. Sì, con quali sì, persone vi siete confrontati, che siete dati dalle istituzioni? Con un comitato di cittadini che allora all'epoca siamo la stessa, quello non esiste più. Non è vero, assolutamente. Loro erano i firmatari. Vi siete andati? Ma quello è un'istituzione, con Loris Lopo non ce ne frega niente. Guardi, con Loris Lopo, il presidente del quartiere non è il comitato di cittadini. Il presidente di quartiere, che cavolo c'è? Il presidente di quartiere ha di tutt'altra parte. Non c'entra niente, il presidente di quartiere sempre è di parte, è un politico, è un'istituzione. Io vorrei che una cosa la signora anche ai tecnici quartieri, che ce ne sono già benissimo risultati, ma queste persone sono veramente superate. Cioè, noi siamo andati una sera che avevamo portato sul loro coperto, hanno spiegato la situazione, quindi abbiamo detto non so, la situazione non si arriva tutto adesso. Chi sono quei fessi? Stanno esagerando, figurati, siamo stati finanziariamente più presenti, quindi comunque è veramente avanzato. Stanno prendendo atto che sono disperati. Cioè, è una situazione di esagerazione, di dramma proprio di vita quotidiana. Quindi non possiamo continuare su questa linea qua, dobbiamo assolutamente andare incontro a queste persone, perché se no cosa succede? Che questa esasperazione che oggi è rabbiosa ma pacifica, prima o poi quando ci sarà un altro tumore alla gola che non è dimostrabile, che deriva da questo, però potrebbe derivare da questo, un altro caso di problemi psicologici. Le persone esasperate, nel momento in cui poi fanno anche delle perdite e mi hanno detto no, non è per quello che ragioni, perderanno veramente la calma e non discuteranno. C'è il rischio che si creino situazioni complicate, perché mi state portando le dichiarazioni. Allora, sforziamoci prima, perché veramente svegliarsi alle 3 mattine e 4 e mezza, a me non è mai capitato, non mi sveglio alle 3, vado in bagno secondo, non ho detto, sono contento. Ah, ma noi tutte le mattine? Anche tutte le sante mattine. A me non è mai successo, penso che darei un atto, quindi secondo me i signori che mi stanno un po' facendo impazzire stasera sono fin troppo calmi per quello che stanno vivendo da tanti anni. Quindi insieme andiamo incontro, perché io sollecitavo loro a stare ancora più addosso, a controllare, a costringere l'azienda a essere in regola, a non fare riforme insieme, a tutti i dipendenti e all'azienda questo dover essere sotto pressione costante per avere problemi. Andiamo insieme a lottare per trovare un posto che a voi possa andare bene, vi possa garantire i vostri fatturati e che a loro possa garantire la salute e il sonno. Aspetta un attimo, c'è Vanni che vuole parlare. Vanni vuole parlare un secondo. Sì, ne ha facoltà. Ci mancherebbe. Mi chiamo Saioli e abito di fronte a Girona. Purtroppo io 9 anni fa, quasi 10, ho fatto il tetto della casa. Adesso, dopo 9 anni, c'è il coprifuori così tanto. Mi costringono a rifare il tetto un'altra volta. Ho speso 24 milioni di lire. Con le vibrazioni che fanno quando carico la chiave, a me copi mi dicono cosa devo fare se non giro che ha speso che di soldi. Io adesso farò fare, guardi, faremo fare, per quanto credo, anche la sua casa, credo che all'interno dell'azienda l'abbiamo già fatto diverse volte le prove per le vibrazioni, le faremo fare anche se volete. Però fate la prova del libretto, non lo diciamo noi. Ma sicuramente non ci sono. Non abbiamo, guardi, non abbiamo la linea in tal senso. Assolutamente. Tutto perché, guardate, ci tengo veramente a precisare che tutto quello che l'azienda può fare per migliorare, ma anche per venire incontro, per migliorare, per collaborare, fare delle indagini strumentali, chiaramente senza però che ci sia un prego anche da parte vostra a fronte poi di un risultato che magari ipoteticamente non dovesse soddisfare, che non ci sia poi alla comunità morte. Noi lo facciamo più che volentieri. Un esame delle vibrazioni, un'indagine strumentale e valutiamo se effettivamente sono a carico. I danni alla salute. Vede, io personalmente sono un'attenta, mi ha colpito molto l'intervento del signore, sono un'attenta osservatrice, studiosa anche per quello nel mio piccolissimo, di tutto quello che sono le patologie da lavoro, perché io vengo un po' dalla medicina del lavoro e io sinceramente per tutto quello che è lo studio, la letteratura, la mia esperienza, soprattutto 39 anni che giro per aziende, non sono due giorni, dubito che ci possano essere patologie legate al tipo di materiali, mentre dal punto di vista psicologico, come lei sosteneva, ecco, posso pensare che l'inasprimento, non dormire, il rumore è possa. E posso fare una domanda? Allora, ma lei ha mai sentito quanto scaricano il camion? Una volta? In una giornata, e 5-6 volte in una giornata l'ha mai sentito. Mi lascia un po' perplessa, voi avete detto che avete un rilevamento ASPA dopo che sono state fatte le barriere, noi non abbiamo nessuno. No, non è un rilevamento ASPA, abbiamo una comunicazione da parte del dottor Marino, ma la riceverete, che è quella che dice che nonostante il parere con assorbenti, il rumore supera i limiti decibel previsti allora, scritti per legge. Ma guardi, allora, se questo è quando noi abbiamo progettato le rete, abbiamo tra l'altro ovviamente documentato, abbiamo il collaudo e abbiamo poi il parere favorevole di ARPA per il tipo di attività, per il tipo di movimentazione, per lei ha visto come sono fatte le barriere? Sì. Lei le ha viste come sono fatte le barriere? Allora, le barriere sono fatte in questa maniera. Allora, le barriere sono fatte esattamente in questa maniera. C'è questo pezzo, c'è questo che è rotondo e c'è una barriera che viene da questa parte. Allora questo si fa, diventa una cassa armonica. Io non sono un ingegnere, sono un povero imbecille che ha fatto solamente la testa e poi basta. Diventa una cassa armonica e questo, questa parte qui arriva tutto addosso alle case. Porca miseria. E non mi dica di no, perché alle 6:30 del mattino cerchiamo la pressa che alle 6:30 comincia già a pressare e a tagliare. Allora, ce lo lascio. Assolutamente. Vabbè, questo l'abbiamo detto dall'inizio, non è che... L'ho già provato. Perché? No, io la ricerca la faccio sempre costantemente, lo possiamo fare anche in cortile a settembre, assolutamente, padronissima, ci mancherebbe. Dove? Facciamo in cortile a settembre. Posso? Ma io sarò felice. Vieni con me. Sarò felice. Però lei non mi crede. Come lei? Vero? Però lei non mi crede, è ora che sia portata. No, io non avevo fatto. Dico. Lei prima. Quantomeno se interessa. Perché mi parlate di barriere, a me non interessa le barriere formalmente. Non servono ancora lì. Non servono assolutamente, sono soldi spesi in un momento. No, i soldi che spendete per le barriere, noi continueremo. Sono soldi spesi inutili, come quelli che sono stati messi su. Poi ti fa il dito. Andate a pensare un'altra parte. O se no fa il dito. Il dito l'ho fatto a me che non ci trovo niente. Un'azienda con l'elettrica che non sta dimostrando. Un'azienda con l'elettrica che non va di niente, ci proponeva delle soluzioni. Queste non ci hanno. Guardi, noi siamo qua intanto. Le soluzioni che io ho proposto, la collaborazione che noi possiamo dare, che ho detto fino dall'inizio, è quella di valutare un'eventuale delocalizzazione, cosa che noi non abbiamo mai abbandonato peraltro. Intento che noi non abbiamo mai abbandonato, indipendentemente da tutto. Perché però prima mi ha detto anche, ma lo sa quanto spende la ditta Gironi a delocalizzare la sua ditta? No, questa è stata una puntualizzazione a un suo discorso, ho detto è un costo delocalizzare. Siccome lei ha detto non è da un'erosa la cosa, delocalizzare. A portarvi dei bigoni arrugginiti, non lo so, non credo che siano delle grosse spese. Ma inutilmente, noi avevamo un'ordinanza, cara signora, ma inutilmente sì, che ma cosa? Poi, sa che cosa succede? Signora, scusi, lei sa che cosa succede se non rispetta un'ordinanza? Che chiudono l'azienda, Ma cosa succede? Sì, cosa succede? Non ho capito. Le misure adottate non sono riesce. Questa la sa. Come? pubblico, almeno questa la sa, che se non rispettano un'ordinanza le chiudono l'azienda, questa, la, questa è già una notizia stasera. L'ordinanza c'era di non... No, no, l'ordinanza imponeva le barriere, la legge. Ah, le barriere sono state progettate, concordate con ARPA, attenzione, le barriere laterali che voi vedete non erano neanche state prescritte, le abbiamo potute mettere noi. Non valgono assolutamente nulla. Noi abbiamo un parere favorevole su un lato. Se ci saranno, se l'altro informato è valore, lo faremo. Assolutamente. La signora prima mi ha accusato di inesattezza quando ho parlato del chilometro. Mauro Tundo è stato il suo amministratore fino a un determinato periodo. Amministratore? Suo geometra. Geometra che era il suo. Sì. Allora le dico che l'inesattezza che l'ha detta lei, i camion partono da mezzanotte in poi, non dalle 4 del mattino alle 3. Scusi, sa, ma vado a letto anche con un po' di sonno, di conseguenza no. Ma se partono mezzanotte ti metto la bomba atomica subito. Partono tutte le ore. Perché al lunedì, quando il camion sta fermo alla sera, di notte, dal sabato alla domenica notte, partono mezzanotte, 2, 3, quelli che vanno via. Alle 2, alle 3. Il camion va, passa sotto alla mia testa, 2 metri. Io le assicuro, faremo una verifica di questa cosa domani stesso. Passo da di lì e poi ci cambia, non è che il Gerone ne abbia niente. A mezzanotte sinceramente non mi Allora mi ascolto, parla con altri. Io sono la consulente della azienda. Mi ascolto, parla con altri. Perché se ascolta me. Lei dice che sono i cambi di Gerone sono 10. 10. 10, va bene. 10. Quelli che vengono da Brescia tirano camion, quanti ne vengono da Brescia? Vuoi che mi metta alla finestra a cosare? No, a filmare. Quante volte vanno avanti e dietro? Da Brescia non vengono camion. Vengono tir, non so da vengono da Brescia perché sono tutti targati non di Bologna. Vengono da fuori, ci sono dei rossi, dei blu, dei tutti a colore. Non sono quelli di Gironi, di Gironi, di 60 anni che abito lì, Gironi lo conosco bene. Ha capito? E so i cambi che c'è a Gerone. Gerone c'è un cambio che tagliamo di lì. No, non testarlo. No, glielo dico anche perché. No, no, mi sembra corretto. Sappiamo adesso su inizio. Ok. Dica di 371, poi l'altro non ho parlato. Non mi permette di venire fuori con la macchina dal garage. Un altro, il marito della signora Gironi, della sorella dei Gironi, mi aveva detto che avrebbe rotto le gambe, si era rotto per quello perché mi ha detto di vedere. Ha capito? No, lasci stare, però non dica che sono 10 metri in camion che come minimo ne faccio di proprietà. Di proprietà. Quante volte vanno avanti dietro? Quante volte vanno avanti dietro? Anche se non mi proprietà che non hanno ci possono essere altri. Ma è importante, i camion, 50 volte il gioco. Chi crede di tappare gli occhi e chiudere gli occhi? Ma io ci vedo, hai passato nel danza cammino. Va bene, no, signore, scusate, allora a questo punto però, vogliamo sapere se è accettata la collaborazione con il comitato. Chiaramente ci riserviamo. Riservate, naturalmente, sentiamo parlare con la ditta Gironi, grande fare loro che comunque la collaborazione non l'ha mai rifiutata nessuno, sinceramente. Io starei un passo indietro. Lei deve credere su una cosa però, che voi siete esasperati e nessuno vi. Gli esasperati riportato stamattina a mezzogiorno dall'ispettore capo dei vigili urbani, l'esasperato è Gironi, testuali parole. Voi siete tranquilli, quello è esasperato perché negli ultimi 2 mesi gli state facendo un culo così. Quindi, e con tutto rispetto, non siamo noi esasperati, tanto è vero. Io guardi, l'avrei voluta concludere in un altro tono, ma lei mi sta togliendo le parole dalla bocca. Il concetto è, noi abbiamo detto questa serata per, no, per parlare dei nostri problemi, che siamo stati felici, non dico, dico il tema voleva essere una specie di terzo tempo del rugby, no? Dove dire, alla fine ci ringraziamo a vicenda con pacche sulle spalle, perché al di là del normale dibattito, che può essere anche vero e sanguigno, però c'è un rispetto umano fondamentale che deve rimanere, quello, e quello deve rimanere. Però quando si è tendenziosi, quando si cerca di strappare, essere capziosi per portare da un'altra parte la discussione, io pianto i freni e sono peggio dei freni ad aria dei camion di leoni. Chi è che vuole portare da un'altra parte la discussione? Guardi, noi stiamo parlando dei nostri fatti e di tutta sera che qui lei sta ascoltando le persone che hanno parlato, che stanno parlando dei nostri fatti. Non abbiamo i rumori e abbiamo i rapporti dell'arco che sono lì. E io credo di avere ci alziamo alle 7, siamo alle 5. Io credo di avere un discorso, potete essere d'accordo o non essere d'accordo, potete dissentire o meno, però vi ho risposto. Va bene, allora no? La prego di concludere. Ecco. Un attimo solo. Un'altra pesantezza che ha detto lei. Quando ho fatto l'esproprio, là in fondo c'era una pressa che stringeva dalle mani, che erano i cubetti. Non hanno spostato, avranno spostato anche quella. Quella là, ma lì ha montato una cesoia, se lei non lo sa, glielo dico io che abito a 30 metri dalla cesoia, di quella che apre al mattino alle 6, ma alle 7, quarte alle 7, che dovrebbe essere come orario alle 7 e mezza. Lei non c'era quando viene a fare un guardamento con noi, ma ieri, quella lì è bene. Allora non so che hanno spostato la pressa accesoria, certo. No, ha montato una cesoia pneumatica lì, è quella che dà fastidio. Perché prima non dava fastidio quella. Lì c'è una cesoia pneumatica che sopra si spacca. Hai detto la cosa. Io adesso le spiego degli infissi di 8 cm più 4 di vetri. Hai mezzo alla casa, senta, dai, adesso ve lo dico, adesso si può dormire lì. Va bene, dobbiamo assolutamente concludere. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, voglio ringraziare i ragazzi del movimento del comitato della bandiera, voglio ringraziare in assoluto coloro che hanno partecipato rispetto alla parte dell'azienda Gironi, tutto girato come veniva, e grazie davvero della partecipazione e della cortesia. Spero che abbiate riconosciuto le giuste contraddittorie e i giusti spazi di comunicazione. Siamo qua. E dico grazie anche a grazie del Movimento 5 Stelle che spero che sono qua con noi a partecipare anche qua. Arrivederci e tutti grazie. Ah, se qualcuno è interessato ad aderire, perché non anche rispetto alla parte dei gironi, al comitato della Merletta, quindi per le nostre cose, siamo a disposizione naturalmente per la delegione in filo di caccia. Informiamo gli altri che passano a lui. Posso interrompere la registrazione, suppongo, no? Assolutamente, sì.